smorzare i toni penso sia il carattere normale di qualsiasi democrazia, anche se i toni alti a volte sono il sale della democrazia. Dipende dalla qualità dei toni e dipende dai contenuti dei toni. E se i toni riguardano una riforma, se i toni riguardano una strategia, una politica economica, tra maggioranza, opposizione, banche, sistemi di controllo, i toni, anche se sono alti, fanno bene. Dipende dai contenuti, dalla qualità dei toni. Se i toni riguardano la vita privata delle persone, beh, forse sono toni inutili.